Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, ultima puntata di Focus Economia della settimana. Poteva andare molto peggio, lo dico subito. Non mi riferisco chiaramente alla piena del Tevere a Roma, ma ai mercati, alla piena dei mercati finanziari, vista la piega che avevano preso le borse asiatiche questa mattina, dopo che in nottata il Senato americano ha bocciato il piano di salvataggio, il prestito di salvataggio per l'auto. Allora, piano che era passato invece alla Camera. Questa mattina, come molti di voi già sapranno, tutte le borse asiatiche hanno avuto dei tonfi superiori al 5%, ne do due per dare l'idea, Tokyo meno 5,5, Hong Kong meno 5,4. Poteva andare peggio, aspettiamo, manca ancora 20 minuti, però, perché le borse europee, dopo un avvio bruttissimo, stanno recuperando. L'America adesso perde solo lo 0,4, a questo punto Parigi perde il 2,1, Francoforte l'1,6, Milano perde il 2%. Certo, non c'è da rallegrarsi quando una borsa perde il 2%, ma nemmeno da strapparsi le vesti, visti gli andamenti a inizio seduta. Ci sono poi i titoli che perdono, ma non casi terribili. Insomma, se ci ricordiamo il periodo da cui arriviamo, vedere Tenaris che perde il 5,7, i Tacimenti il 5, Fiat il 4,8, è un forte calo, ma non drammatico come in altre sedute. Mediaset meno 4,4, come Terna, il 3,7 lo perde l'Espresso, come Saipem, il 3,5 il calo di ST Microelectronics, il 3,3 lo perde Intesa, il 3,1 lo perde Geox e anche il Banco Popolare. Autogrill e Snam meno 3%, anche il Monte dei Paschi perde il 3%, Ubibanca meno 3%. Sul fronte opposto, chi guadagna? Fastweb più 2, Seat più 1,4, Banco Popolare più 1%, Alleanza Assicurazioni mezzo punto percentuale di rialzo assieme a Luxottica. L'euro è a quota 1,3362, quindi è in rafforzamento. Di cosa parleremo oggi? Beh, parleremo in primo luogo dell'accordo raggiunto con tempi anche più rapidi del previsto a Bruxelles tra i capi di governo dell'Europa, il pacchetto clima, il 20-20-20, accordo firmato anche dall'Italia. Avremo sia le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Berlusconi che del Presidente di turno dell'Unione Europea, Nicolas Sarkozy. Ancora la crisi, comunque il vertice Ecofin straordinario, commentato sia da Berlusconi che da Sarkozy. Poi in collegamento con l'America, per capire che cosa stia facendo la Casa Bianca dopo il blocco che è arrivato dal Senato agli aiuti del settore auto. Infine, 18:15, l'Alitalia, perché ufficialmente è stato firmato il passaggio di consegne tra la vecchia Alitalia e la CAI. 349-238-6666 per i vostri SMS, le notizie in breve. Allora, il petrolio $44,4, addirittura in calo del 7%, nonostante un euro forte, quindi ormai da intere sedute l'andamento dell'euro non è più la prima, perlomeno la prima variabile a influenzare il petrolio, dopo i dati di ieri sulla domanda mondiale di energia e di petrolio che nel 2008 potrebbe essere in calo. Beh, è chiaro che nessuno va a scommettere su un aumento del prezzo del petrolio, e quindi tutte le operazioni sono su un petrolio ribasso. Ancora dati americani, produzione industriale meno 2,2, indice Michigan risale a 59 punti, vendita al dettaglio meglio del previsto. Sono dati misti, per fortuna, non così unidirezionali come quelli sull'occupazione, che è stata bruttissima. L'India, dopo la notizia che abbiamo dato sulla Cina, cioè per la prima volta la Cina vede calare l'export e ha circa 2-3 milioni di contadini, ex contadini inurbati che si stanno ritrasferendo nelle campagne. Oggi è la volta anche dell'India. La produzione industriale indiana a ottobre, in maniera assolutamente inattesa, scesa dello 0,4%. gli analisti ormai mitici si aspettavano un rialzo del 2%, ma la cosa interessante è che il primo calo della produzione industriale in India da 15 anni a questa parte, e a settembre la produzione industriale aveva fatto un più 5,5%. Ancora Euribor, l'Euribor continua a scendere, è una delle poche buone notizie assieme al petrolio di queste settimane. È sceso al 3,28% oggi, l'Euribor a tre mesi, ossia ai minimi del 5 settembre 2006. Il dollaro crolla invece, visto che parlavamo dell'euro, nei confronti dello yen, è scivolato sotto quota 90 a 88,10 yen. È ai minimi dall'agosto del 1995. Ora si stanno, lo conferma chi ce lo chiede, stanno per chiudere con cali intorno al 2% le borse europee. Questa mattina dicevo, oltre ai cali che superavano ampiamente il 4%, c'erano i titoli legati al settore auto, cioè General Motors e Ford, che perdevano, GM il 30%, Ford il 9%. Questa mattina in Asia Hyundai ha perso il 6% e Honda e Nissan l'11%. Ripeto, adesso non ho il dato sotto mano per General Motors e Ford, però sicuramente tutte le borse europee hanno recuperato almeno metà del calo che segnavano all'inizio mattina. La Casa Bianca è pronta, quindi restiamo in tema di aiuti al settore auto, a dirottare ai costruttori di automobili parte dei soldi, che ricordo complessivamente sono 700 miliardi di dollari, stanziati per aiutare le banche e il sistema finanziario. Siccome la cifra che abbiamo letto è di 14-15 miliardi di cui avrebbe bisogno il settore auto, ebbene non si tratterebbe di una grossa fetta di questo, di quel pacchetto. Tra l'altro anche il Dipartimento del Tesoro poco fa ha detto di essere pronto a intervenire per il fallimento di uno o più dei tre colossi dell'auto americano. Però oggi il Wall Street Journal Online scrive: attenzione, la General Motors si sta preparando all'eventualità di una bancarotta. È il più grosso produttore di auto in America, il secondo al mondo, con la conseguente amministrazione controllata in base alla procedura del cosiddetto Chapter 11. La procura di New York e l'FBI hanno annunciato l'arresto di Bernard Madoff, che era un trader di Wall Street, ex direttore del Nasdaq, niente di meno, accusato di aver ideato una gigantesca frode per un valore di circa 50 miliardi di dollari. Madoff ha 70 anni, rischia fino a 20 anni di carcere e una multa da 5 milioni. Nel frattempo, dopo che la Bank of America ha acquisito Merrill Lynch, ha anche intenzione di licenziare fra i 30 e i 35 mila dipendenti nei prossimi 3 anni, una cifra astronomica, vuol dire andare avanti a botte di 10-11 mila dipendenti all'anno. Ancora veniamo all'Italia. Se le retribuzioni Istat fotografate nel terzo trimestre, le retribuzioni lorde pro capite sono salite del 5,6%, la notizia più forte oggi del nostro paese arriva sul fronte Alitalia. Alle 15:11 minuti è stato firmato l'accordo con la CAI e quindi da oggi la CAI è proprietaria di Alitalia. Non è più, diciamo, l'Italia del Tesoro, quella parte dell'Italia che va a comprarsi. Il nome lo potremmo usare, il nuovo nome però arriverà dal 12 gennaio, e quindi però ha detto Colaninno, il numero uno della CAI, che lo userà già da oggi perché preferisce il nome Alitalia a quello CAI. E il partner straniero arriverà entro la fine dell'anno. E poi Rocco Sabelli, amministratore delegato della CAI, ha detto: attualmente ci sono 21 soci con complessivi 850 milioni di euro di capitale. All'Italia, con l'integrazione del One, arriverà una quota di mercato domestico tra il 55 e il 56% l'anno prossimo. Per quanto riguarda il partner, due sono le proposte, e quindi sceglieremo o tra Lufthansa o tra Air France, e da oggi sono già partite le prime lettere di assunzione. In che modo, restiamo tra crisi economiche e Alitalia, in che modo questa crisi economica sta influenzando il turismo? Come ogni anno esce il rapporto prima delle vacanze di Natale del CISET, Centro Internazionale di Studi dell'Economia Turistica, ha interpellato 500 operatori, albergatori, tour operator, e lo sentiremo nella seconda ora, perché c'è qualche novità sulle vacanze degli italiani, su come gli italiani reagiscono alla crisi economica e finanziaria in atto. Adesso parliamo del primo tema, l'accordo sul pacchetto climatico firmato praticamente intorno a ora di pranzo a Bruxelles. Festeggiamo per l'Italia, chiedono alcuni di voi. Sì, festeggiamo. Vi ricordo che più di 3.000 dipendenti all'Italia poi li pagherà la cassa integrazione per 7 anni, e poi bisognerà vendere gli asset. Insomma, festeggiamo sì, perché finalmente con la firma di oggi si conclude una vicenda che nella sua ultima parte va avanti da un anno, nelle parti precedenti da qualcosa in più, 5, 6, 7 anni. Intanto parliamo di clima, perché oggi l'accordo è stato raggiunto tra i 27 capi di Stato e di Governo sul pacchetto clima: maggiore flessibilità per i settori industriali, che dal 2013 dovranno pagare per ottenere il diritto a inquinare, questo previsto nella bozza, e poi i settori industriali non esposti ai rischi di carbone, di fuga di carbone, carbon leakage come si chiama in gergo, cominceranno nel 2013 con l'obbligo di pagare il 20% dei diritti di CO2 per arrivare al 70% nel 2020 e poi al 100% solo nel 2025. Quindi il 100% sulle emissioni di CO2 dovrà essere garantito nel 2025, non più nel 2020. I settori più esposti invece ai rischi di delocalizzazione, tra cui il nostro manifatturiero, la ceramica, l'acciaio, il settore del cemento, non cambiano per questi settori le percentuali sui costi addizionali, ma vengono scorporati alcuni criteri, un po' tecnica come notizia, però insomma all'Italia questo permette di vedere incluse nella lista degli esonerati dall'applicazione rigida delle emissioni i 4 settori industriali per cui noi eravamo più timorosi e su cui c'era maggior paura, e mi riferisco alla carta, alla ceramica, al vetro e alla siderurgia. Loro avranno il 100% dei permessi di CO2 gratuiti fino al 2020. L'Italia ha poi ottenuto una clausola di revisione generale al marzo del 2010 per l'intero pacchetto clima-energia, che poi viene estesa all'intera valutazione dell'Unione Europea sull'impatto che questo pacchetto sta avendo e avrà o avrà avuto da allora sulla competitività delle imprese europee. Insomma, adesso ne parleremo meglio con Adriana Ceretelli, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, che ringrazio e saluto. Buonasera Adriana. Buonasera. Però un accordo c'è stato, l'Italia ha ottenuto questi 4 settori. Sentiamo in primo luogo le dichiarazioni del presidente di turno dell'Unione Europea, ossia il francese Nicolas Sarkozy, che ha parlato di un consiglio storico e ha anche ricordato come grazie alla posizione italiana di Silvio Berlusconi l'accordo sia stato trovato rapidamente. Paquet énergie climat. Ce qui se passe là est vraiment historique. Il n'y a pas un continent au monde. Circa il pacchetto energia clima, ciò che è successo oggi ha una portata veramente storica. Non c'è un solo continente al mondo che abbia politiche più stringenti di quelle che abbiamo appena deciso di adottare all'unanimità. Gli obiettivi restano gli stessi. Termine al 2020 del pacchetto 20-20-20. Come la precedente commissione nous avons fait valoir. Voglio sottolineare, come fatto già in precedenza dalla Commissione, che la crisi internazionale non poteva essere in alcun modo una scusa per non continuare sulla strada dei progressi circa la tutela ambientale. È stata al contrario una spinta per fare meglio, per cambiare il nostro modello economico, per protendere verso una crescita duratura e verde e per modificare le fonti energetiche in Europa. Francamente è stato molto più facile del previsto. Il risultato raggiunto oggi rappresenta veramente qualcosa di storico. Nel momento in cui il presidente degli Stati Uniti designato, Obama, ha messo in cima alle sue priorità la tutela dell'ambiente, non avrebbe avuto senso che l'Europa abbandonasse questa priorità. Non avrebbe avuto senso. Voglio rendere omaggio all'Italia. Sapevo che all'inizio non c'era molto entusiasmo, ma abbiamo trovato, grazie al presidente Berlusconi, un accordo abbastanza rapidamente. On a trouvé, grâce au président Berlusconi, un accord assez rapide. Beh, elogio chiaro, netto, incontrovertibile di Sarkozy anche alla posizione italiana, e poi un compromesso storico, velocemente, adesso sentiremo anche i commenti di Adriana Ceretelli, in effetti c'era chi temeva con trattative lungo tutto il fine settimana, sentiamo però anche su questo il Presidente del Consiglio Berlusconi. Le misure che sono state decise sono misure che vanno in essere dal 2013 in avanti, ma, e questa è una grande vittoria italiana, abbiamo ottenuto che dopo Copenaghen, già nel marzo del 2010, ci sia una rivisitazione globale di queste misure sulla base dei risultati di Copenaghen. Sia Copenaghen, gli altri grandi emettitori di anidride carbonica, Stati Uniti in testa, subito dopo la Cina, l'India, eccetera, non fossero in accordo con le misure assunte dall'Europa, noi potremmo rivisitare l'intero pacchetto ed adeguarlo alle decisioni che hanno preso gli altri. Credo che il risultato sia veramente un risultato pieno. L'Europa si pone in avanguardia per quanto riguarda le misure dell'ambiente, ma non pagherà essa soltanto il conto se anche gli altri, i più importanti paesi che mettono anidride carbonica, non si impegneranno nella conferenza di Copenaghen. E credo che anche questa volta la nostra abilità tattica abbia pagato e ci abbia consentito di avere una grande affermazione anche di autorevolezza nei confronti degli altri membri del Consiglio. Allora, Adriana Ceretelli, ne abbiamo parlato a lungo di questo pacchetto, io ricordo originariamente doveva essere 2020, entro il 2020 il 20% in meno di emissioni di anidride carbonica, il 20% in più di utilizzo di fonti rinnovabili, il 20% in meno di consumo di energia. L'Italia temeva costi da decine di miliardi l'anno sul proprio sistema produttivo, l'abbiamo detto anche ieri, che noi abbiamo tante industrie pesanti e meno servizi rispetto ad altri paesi. Mi sembra che sia come tempi che come accordo complessivo, soprattutto da parte italiana, possiamo, non dico festeggiare, ma sicuramente essere contenti. Sì, diciamo che è un compromesso equilibrato quello che è stato raggiunto e che ha dato ragione a tutti. È andato incontro alle richieste di tutti, perché tutto sommato erano delle richieste ragionevoli. Tutti, compresa la Germania, che era partita lancia in resta nel marzo del 2007 con questo piano di contro il riscaldamento climatico e quindi questa terza rivoluzione industriale che avrebbe dovuto carburare l'economia europea e darle una leadership globale dal punto di vista dell'innovazione tecnologica. Dicevo, la stessa Germania della Merkel si è poi ritrovata non solo con la recessione sul collo, ma soprattutto con il fatto che ha dovuto fare i conti con quei numeri 20-20-20 entro il 2020 che aveva deciso appunto al suo vertice europeo, numeri che tradotti in pratica rappresentavano dei costi astronomici anche per le sue industrie, che pure non hanno ritardi su certi fronti come le rinnovabili. Allora, le difficoltà della Germania coniugate con il problema dei costi per l'industria europea, e per l'industria italiana in particolare, noi abbiamo un forte manifatturiero come i tedeschi, con il fatto che i paesi dell'est che hanno dei ritardi accumulati da un passato che li ha visti penalizzati nel loro sviluppo, tutto questo ha fatto sì che la trattativa difficile si sia alla fine diciamo sfociata in un accordo ragionevole ed equilibrato, per cui i vecchi obiettivi, i 3,20, sono rimasti da raggiungere entro il 2020, ma dentro allo schema si è usato il massimo della flessibilità, soprattutto per quanto riguarda appunto l'acquisto o la gratuità delle licenze ad inquinare, e tutto questo ha reso il compromesso possibile e l'accordo sul clima realistico. Ecco, per fare capire a tutti la cosa, diciamo che avvantaggia di più l'Italia e tutela anche il nostro sistema produttivo, non è solo la possibilità, come ricordava Berlusconi nel 2010, di vedere cosa fanno Cina e America e poi casomai cambiare in corso d'opera, perché molti hanno anche detto che senso ha che l'Europa faccia uno sforzo enorme se poi in Cina c'è una nuova centrale di carbone a carbone praticamente all'anno, ma l'altro elemento importante è la possibilità di avere alcuni settori, li abbiamo sentiti, no? Quelli che noi interessiamo di più, la carta, la ceramica e ancora l'acciaio per quello che riguarda i settori industriali e il vetro, che sono esonerati fino al 2020, ho capito bene, cioè 100% di permessi fino al 2020, per cui quelli non verranno, anche perché quelli emettono, lo dico a chi in ascolto, emettono tanta di quella CO2. Sì. Poi ci sono anche parte del manifatturiero non esposto a quei livelli che ha comunque degli sconti per quanto riguarda appunto il commercio, l'ingresso nel commercio e nell'acquisto delle emissioni di CO2. Ma poi l'Italia ha ottenuto un'altra cosa che desiderava, che era il fatto di poter conteggiare nella riduzione delle proprie emissioni anche gli impianti che ha già fatto o che farà nei paesi del terzo mondo. Anche questa è una valvola di flessibilità che interessa al nostro sistema. La clausola di revisione è molto importante, perché ovviamente o diciamo, come spera l'Europa, l'America di Obama imprimerà una svolta alla battaglia ambientale entrando a sua volta in questa battaglia, e allora forse sarà più facile fare diciamo una crociata globale di sviluppo e di guerra all'inquinamento, oppure l'Europa dovrà riflettere sulle proprie decisioni, nel senso che dovrà probabilmente mantenerla, ma forse ricalibrarla alla luce del fatto che questo tipo di battaglie sacrosante fatte da sole però sono come versare un secchiello d'acqua nel mare. Per cui sono, diciamo, un aspetto importante per tutti che la revisione nel 2010, vedere cosa fanno nel frattempo America e Cina, un aspetto importante in particolar modo per l'Italia, cioè alcuni settori, quelli che emettono di più, che sarebbero stati oggettivamente penalizzati rispetto a altri settori con il rischio di delocalizzazione, avranno non gratuità nelle quote di emissione fino al 2020, altri settori che si emettono ma non così tanto avranno, diciamo, degli sconti di prezzo, per dirla in maniera un po' imprecisa. Grazie ad Adriana Ceretelli, corrispondente sulle 24 ore da Bruxelles. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, alcuni messaggi che arrivano sempre sul tema dell'accordo definito storico dallo stesso presidente di turno Nicolas Sarkozy sul clima. No, non è che alcuni settori potranno inquinare, un po' diverso. Adesso non possiamo entrare nel dettaglio, ma l'accordo prevede che, insomma, si paghino le quote di emissioni, no? Più emetti, come pagare, diciamo, da questo punto di vista una tassa sulle emissioni. Alcune industrie erano chiaramente svantaggiate, alcuni settori industriali erano chiaramente svantaggiati rispetto ad altri, perché un conto è essere una banca o avere una società di servizi, e un conto è essere una fabbrica siderurgica o della piastrella, della ceramica, perché hai emissioni più alte. Allora si è cercato, e l'Italia molto si è battuta per questo, di non rendere non competitivi rispetto a chi opera fuori dai confini europei, non solo in Cina ma anche in Turchia o nel Nord Africa, alcune nostre produzioni, perché altrimenti era chiaro che se devi scegliere tra pagare decine di milioni all'anno o delocalizzare, il rischio era di rendere meno competitiva l'Europa in un periodo in cui tra l'altro non ce n'è moltissimo bisogno, e meno competitiva l'Italia. Quindi ripeto, tutto sommato, viste le premesse, a noi sembra un buon accordo sia per l'Italia sia per l'Europa, e anche perché obbligherà Stati Uniti e Cina nel 2010 a Copenaghen a dire che cosa vogliono fare, perché l'Europa non può continuare semplicemente a fare l'anima bella e dire no, intanto noi andiamo avanti con uno sforzo economico non indifferente se gli altri non seguono. Notizia dell'ultimo minuto: Pietro Modiano, che si è dimesso, questo ormai lo sapete, dal gruppo Intesa San Paolo, sarà il nuovo presidente della Carlo Tassara, ossia la società di Roman Zaleski, finanziere di origine polacca, che ha avuto un bel po' di problemi in queste ultime settimane. Le banche straniere sono uscite, le banche italiane hanno fatto un nuovo prestito, ma insomma c'era una vicenda molto discussa, perché si è detto insomma alcuni hanno delle corsie preferenziali rispetto ad altri quanto a debitori. Non possiamo tornare sul caso di Zaleski in questo momento, parliamo invece della crisi economico-finanziaria in atto, perché anche su questo sono intervenuti vari capi di Stato e di Governo oggi a Bruxelles nell'annunciare tra l'altro un vertice straordinario dell'Ecofin. Eh sì, il prossimo 18 dicembre si incontreranno i ministri economico-finanziari e poi anche i presidenti, ma in primo luogo i ministri, per mettere a punto nuove misure. È sembrata quasi la missione ad alcuni, almeno, che il primo pacchetto di misure anticrisi europee non abbia dato gli esiti sperati, sia un po' troppo vago e lasci un po' troppa iniziativa ai singoli governi nazionali. Intanto comunque il Consiglio europeo ha approvato il piano antirecessione messo a punto dalla Commissione europea. Scusatemi, l'ammontare complessivo delle risorse di circa 200 miliardi, ma attenzione, in realtà miliardi veri europei sono 30, se non ricordo male, non di più, e comunque è pari a circa 1,5% del PIL europeo, con la possibilità appunto di sforare anche il deficit. Chi può permetterselo? Noi, come spiegavamo ieri, siamo quelli che meno se lo possono permettere per via della necessità che abbiamo anche di rifinanziare il nostro debito con obbligazioni. Non possiamo permettere che il voto sul nostro debito scenda, sarebbe un disastro. Tra l'altro, gli strumenti per sostenere la domanda interna dovranno avere un effetto immediato. Questo è emerso oggi dal vertice dei capi di Stato di Governo di Bruxelles. Per esempio, si stanno individuando alcuni settori di intervento, i più colpiti e i più importanti, due su tutti: automobile e costruzioni. E poi il Consiglio europeo ha richiamato le banche e le istituzioni finanziarie a usare pienamente tutte le agevolazioni a loro concesse per mantenere e sostenere il credito all'economia. Ancora il presidente di turno Nicolas Sarkozy ha detto il piano dell'1,5% che prevede, che dà la possibilità ai paesi dell'Unione Europea di spendere l'1,5% del PIL per aiutare, per combattere la crisi economica, è un piano che comunque permette anche di mantenere il patto europeo di stabilità e crescita. De grandes décisions ont été prises à l'unanimité. Alcune decisioni molto importanti sono state prese oggi all'unanimità. Per ciò che riguarda la crisi economica, tutti i leader europei hanno dimostrato un assoluto accordo sulla gravità della crisi. Non c'è stata alcuna voce discordante. Tutti hanno mostrato accordo sulla necessità del piano di rilancio, basato sul progetto del presidente Barroso, che ammonta a circa l'1,5% del PIL europeo. On a trouvé un accord. Si è trovato un accordo in base al quale il patto europeo di stabilità e di crescita resta in vigore. Abbiamo bisogno del patto e abbiamo bisogno che il patto riprenda a funzionare. Il nostro obiettivo nel medio termine resta la riduzione del deficit e del debito, ma la situazione eccezionale richiede misure eccezionali. Nel periodo di crisi prendiamo le misure necessarie per contrastarla. Si è raggiunto un accordo completo e credetemi, tutti hanno spinto nella stessa direzione. Et je vous demande de le croire, tout le monde tire dans le même sens. Così Nicolas Sarkozy. Di crisi però ha parlato anche il presidente del Consiglio Berlusconi, ha detto è il momento di spendere, non di risparmiare, la crisi è nelle mani dei cittadini e i cittadini a Natale devono spendere. Ciò che è stato fatto per le banche, ciò che è stato fatto attraverso le banche garantendo liquidità alle aziende anche per futuri investimenti, quello che si può fare sia in favore delle aziende sia in favore delle famiglie è poco e non funzionerà se non ci sarà una atmosfera di fiducia e di ottimismo da parte dei cittadini. E la crisi è nelle mani, in effetti, dei cittadini, della loro capacità di non farsi prendere dalla paura, e io perciò continuo a insistere, e tutti ieri sera mi hanno dato ragione, che compito dei governi è quello di sollecitare i cittadini a mantenere le loro abitudini di acquisto, i loro stili di vita. Per quello che io dico, fate la campagna dei regali di Natale. Non è il momento di pensare a risparmiare, è il momento invece di investire, di spendere, perché soltanto così si può evitare una crisi troppo profonda e troppo estesa nel tempo. Questa è la dichiarazione del Presidente del Consiglio Berlusconi su come affrontare la crisi. Di nuovo in diretta, allora l'ultima cosa che voglio fare è interpretare le parole di qualunque Presidente del Consiglio, per cui non ho, le avete sentite in maniera molto chiara. Il messaggio di Silvio Berlusconi è stato ad avere fiducia e continuare a consumare, a non abbassare il proprio potere d'acquisto, a spendere per i regali di Natale per evitare che si entri in una crisi troppo profonda. E immagino, con quello che molti di voi scrivono, che si riferisce a chi può spendere chiaramente sotto Natale, non a chi ha difficoltà ad arrivare a fine mese, per cui, insomma, quelle fasce di popolazione che per un motivo o per l'altro hanno mantenuto in questi anni il loro potere d'acquisto. Adesso però, perché commenti di carattere politico in questo programma non ne facciamo, ognuno si fa le sue idee, adesso passiamo invece a una crisi dentro la crisi, e cioè quella del settore auto americano, con la doccia fredda che è arrivata ieri in notte ora italiana. Il Senato americano ha bocciato il piano di aiuti da 14 miliardi, crollo questa mattina nei mercati asiatici, crollo dei titoli General Motors e Ford. Per fortuna le borse hanno chiuso in Europa non così male come avevano aperto. Certo, il calo di 2,5 punti a Milano, del 2,2 a Francoforte, del 2,80 a Parigi, però ricordo che stamattina erano vicine ai 5% le flessioni delle borse europee. E allora la crisi del settore auto americano. Lo stop del Senato, atteso ma insomma non sperato sicuramente. A questo punto la Casa Bianca dice di essere pronta a dirottare parte dei soldi previsti per l'aiuto al sistema finanziario e bancario americano sul settore automobilistico, per evitare che uno o più dei tre colossi, General Motors, Chrysler e Ford, possa fallire. Nel frattempo però la General Motors, secondo quanto pubblicava oggi il Wall Street Journal Online, si starebbe preparando l'ipotesi di bancarotta, di fallimento, di Chapter 11, nel caso appunto le cose andassero anche peggio. Secondo Bush sarebbe irresponsabile lasciar fallire queste tre società, anche se devono prepararsi a grossissimi sacrifici. Mario Platero, corrispondente del Sole 24 dagli Stati Uniti, buonasera. Buonasera. Allora, ci penserà la Casa Bianca di Bush, con un prestito ponte per Obama, a dare questi 14 miliardi di dollari al settore auto, perché sennò il panettone mi sa che non lo mangiano a Detroit? Ci penserà la Casa Bianca, alti e bassi anche nel settore auto, come quelli che abbiamo visto ormai da mesi nel settore finanziario. Ieri notte all'1:30, alle 2 del mattino ora locale, è giunta la notizia della spaccatura, e quindi totalmente inattesa, una notizia arrivata a caldo su cui non si capivano alcune cose, cosa era successo, e quindi anche per quello i mercati asiatici sono precipitati, i mercati europei sono precipitati sulla scia di quelli asiatici. Poi questa mattina, devo dire abbastanza presto, prima ancora dell'apertura dei mercati americani, dalla Casa Bianca è giunta la notizia che si stava meditando l'intervento per sostituirsi a quello che la politica, o meglio il Congresso, o meglio repubblicani, democratici e sindacati insieme non erano riusciti a fare. I 14 miliardi ponte, secondo me, ci saranno, è solo questione di tempo, ma arrivano. La patata bollente resta il negoziato col sindacato. Ricordiamolo, è stato il sindacato alla fine che non ha ceduto su un punto su una condizione che era stata imposta dai repubblicani ma accettata dai democratici, e cioè chiedevano i parlamentari che i sindacati sottoscrivessero una clausola molto precisa: prendiamo denaro pubblico ma in cambio accettiamo di equipararci ai lavoratori che lavorano nel sud, nelle fabbriche, negli impianti della Honda, della Toyota, della Nissan, quindi della BMW, insomma, quelli stranieri. Ecco Mario, ti interrompo, sentiamo un passaggio della conferenza stampa dei sindacati oggi a Detroit. Ron Gettfinger, tra l'altro, ha chiesto direttamente al segretario al tesoro Henry Paulson di usare i soldi per le banche. Gettfinger è uno dei leader del UAW, cioè il principale sindacato americano dell'auto. The only options are for Treasury Secretary... L'unica opzione è che il segretario del tesoro Paulson faccia ciò che è di sua competenza, cioè usare i fondi del TARP per dare assistenza, oppure che la Federal Reserve agisca per prevenire l'imminente collasso del settore automobilistico e per prevenire le devastanti conseguenze per milioni di lavoratori, aziende e famiglie in tutta la nazione e per l'economia intera. Quindi Mario, dicevi la posizione dei sindacati. La posizione del sindacato è stata a un certo punto irriducibile su un punto, ricordiamolo, sono arrivati a un passo dall'accordo, era questione addirittura di minuti e di poche parole, e cioè il sindacato doveva accettare di indicare una data entro la quale si sarebbero adeguati alla competitività delle altre case d'auto che producono straniere in America e nel sud in particolare. La data richiesta dai repubblicani era il 2009, ma era una data negoziale. Le case automobilistiche e i democratici avevano proposto il 2011, e cioè la scadenza del contratto triennale del UAW, United Automobile Workers, ricordiamo il sindacato dei lavoratori dell'auto, ma proprio Gettelfinger, in una serie di, secondo me, tragedia degli errori, nel senso che poi ciascuno pensava che l'altro volesse fare un tranello, quindi si sono create una serie di ombre, quindi a un certo punto lui non ha voluto andare a parlare direttamente e così via, così via, ma così sul filo del rasoio a un certo punto Gettelfinger ha detto: no, noi non possiamo dare una data precisa, la data precisa semmai la daremo nel 2011 quando scade il contratto. Su questo si è rotto il negoziato e ci si è a questo punto così rivolti alla Casa Bianca, ma dietro tutto questo ti dirò che c'è un braccio di ferro politico che è già cominciato. I sindacati chiedono molto alla prossima amministrazione Obama, un aspetto negoziale di questo genere vogliono negoziarlo con la prossima amministrazione, non con questo Parlamento, non con questa amministrazione. Obama deve molto ai sindacati che lo hanno aiutato nelle elezioni. Certo, si sarebbe trovato il prossimo presidente in vantaggio se una grana di questo genere fosse stata risolta. Purtroppo non è stata risolta e quindi siamo punto a capo. La politica alla fine e gli intrugli alla fine anche in America finiscono per prevalere. Ma infatti Mario, su questo anche che ti saluto, perché a me, con tutte le distinguo, le differenze del caso, questo passaggio ponte tra l'amministrazione Bush e Obama, i sindacati che sperano che Obama sia molto molto più generoso, si irrigidiscono su richieste che oggettivamente, insomma, chiedere che poi la produttività di questi colossi d'argilla sia simile a quella dei concorrenti Toyota e altri già presenti in America non mi sembrava una gran richiesta. Ricorda, ripeto, con tutti distingo, quello che avvenne nel passaggio pro di Berlusconi con l'Italia. E anche lì errori sindacali, resistenze sindacali, una insensibilità alla situazione. Comunque, grazie a Mario Pratero, corrispondente sulle 24 ore dagli Stati Uniti. Adesso andiamo a parlare di borsa, iniziamo a parlare di borsa, per poi continuare dopo il GR, meno 2,5% S&P MIB, meno 2,3% il MIBTEL, meno 2,80 Parigi, meno 2,2 Francoforte, meno 2,6 Londra, meno 1,2 in questo momento l'America. E guadagna invece lo 0,3% il Nasdaq. Poteva andare molto peggio perché dopo quello che è successo nella notte sul settore auto americano, il calo era stato pesantissimo in Asia e anche in Europa in apertura. Vediamo che cosa è successo ai titoli, partendo proprio da Fiat con Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera a tutti. Fiat. Fiat è andata male ovviamente insieme a tutto il comparto auto europeo e mondiale, visto che appunto si temeva il peggio dopo la bocciatura nella notte di cui avete ampiamente parlato. E d'altra parte, a pesare sul Fiat ci sono anche altri fattori. Infatti ieri è stato approvato il budget per il 2009 e è stata un'occasione durante la quale l'amministratore delegato Sergio Marchionne ha preannunciato che il 2008 è un anno record, ma il 2009 sarà un anno pieno di incognite. E quindi ovviamente, siccome la borsa guarda sempre avanti, ha finito per vendere le azioni. Peraltro anche nei giorni scorsi sono circolati report negativi che indicavano target di prezzo molto più bassi rispetto alle attuali quotazioni di 5-15 certo. euro. E questo comunque, insomma, tutto il settore auto, addirittura oggi a un certo momento il titolo General Motors in Europa perdeva il 30%, Ford il 9%, per cui tutto il settore auto oggi è andato male. E Fiat meno 6 quasi, meno 5,9, ritorna a 5,1 euro per azione. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte del programma. Concludiamo allora l'aggiornamento dai mercati finanziari. Ripeto che si fosse messo in collegamento dopo la bruttissima chiusura questa mattina dell'Asia, oltre il 5,5% di calo, e la brutta apertura in Europa, più del 4,5% in generale questa mattina alle borse europee, la chiusura è stata sicuramente migliore di quanto non si temesse. S&P MIB meno 2,5, MIBitel meno 2,3, Parigi meno 2,80, Francoforte meno 2,2, Londra meno 2,4. A penalizzare tutte le borse mondiali il no del Senato, o perlomeno il blocco del piano di aiuto al settore auto americano. Con Eleonora Michele abbiamo già commentato il titolo Fiat, meno 5,9, male anche Tenaris, meno 6,5%. Eleonora, il peggior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione, e vorrei un commento, e poi male anche Italcementi, meno 5,7%. Novità sui Italcementi e Tenaris? No, Italcementi e Tenaris sono due titoli che nelle ultime settimane soprattutto, ma anche negli ultimi mesi, hanno dimostrato di essere molto volatili. In genere tendono sempre a estendere, ad amplificare quello che è l'andamento della borsa. Su Tenaris va detto che è una società strettamente connessa all'andamento del comparto petrolifero, visto che appunto il business è legato a quello del petrolio, e oggi è andato male tutto il comparto petrolifero. Questo dopo che la banca d'affari Goldman Sachs ha rivisto le previsioni per il prezzo del greggio nel 2009. Secondo la banca d'affari si attesterà il prezzo medio dell'anno a $45 al barile. E quindi questo ha penalizzato un po' tutto il comparto. A Milano è andata male ad esempio anche la stessa Eni, meno 2,5%. La vicenda Intesa San Paolo, le dimissioni di Pietro Modiano, tra l'altro ricordo, l'abbiamo dato in diretta, che si è saputo mezz'ora fa che Pietro Modiano sarà il nuovo presidente della Carlo Tassaro, ossia la finanziaria di Roman Zaleski. È arrivata una nota subito dopo la chiusura di borsa. Intesa meno 4,7. Sì, Intesa è andata male, va detto che quest'oggi è andato male tutto il settore europeo bancario, era senza dubbio uno dei peggiori. Intesa appunto subiva il contraccolpo della notizia delle dimissioni di Pietro Modiano, e in più a metà seduta è arrivata anche un'ulteriore notizia negativa per ovviamente l'andamento dei titoli in borsa, ovvero che la Zaleski ha ridotto la propria partecipazione dal 5 al 4,6%, ha dato il via cioè al processo di dismissione della quota, quello proprio che temeva il mercato. Peraltro va detto che la notizia è emersa dalle dichiarazioni Consob. D'altra parte, a questo punto, ogni volta che la Tassara accederà a quote, non potrà più emergere dalle dichiarazioni Consob, in quanto dal 5 al 2% non vengono rese pubbliche. Per cui non si saprà di fatto di quanto scenderà, o meglio, lo sapranno gli operatori, ma non lo sapremo più noi come comunicazioni all'autorità di vigilanza. Saipem, tu ricordavi, settore energetico meno 4,8, debole oggi, debole anche Terna, più che debole, meno 5,2, Enel meno 3,80, Espresso meno 4, Estima Electronics meno 3,7%. Veniamo A2A meno 3,4, Banca Popolare di Milano meno 3, Snam meno 3, Mediaset meno 2,90, Eni appunto meno 2,5 come Unipol e Unicredito, Autogrill meno 2,1 come Bulgari e Geox. Il 2% l'ha perso Telecom Italia, qui hanno tagliato anche un voto sul debito? Esatto, infatti a pesare sui titoli di Telecom, che comunque hanno chiuso sopra i minimi toccati in giornata, è stato Fitch, il giudizio di Fitch sul debito senior e sul debito a lungo termine della compagnia telefonica. Ancora sui titoli. Bene, il Banco Popolare più 2,5, Alleanza più 2,2, Seat più 1,6, Fastweb praticamente è arrivata a 20 euro per azione, più 0,85%, ma da inizio dicembre ha recuperato un bel po', oltre il 20%. Esatto, Fastweb infatti è ben acquistata da inizio dicembre. Va detto che nelle ultime settimane sono circolate report di banche d'affari positivi sulla società, e poi probabilmente anche a seguito della buona performance sono circolati i soliti rumor che la controllante Swisscom potrebbe pensare a un delisting, a un'OPA, visto che l'operazione non sarebbe neppure troppo costosa. Anche se l'operazione, va detto, almeno in passato è stata più volte smentita. Grazie, nonno Michele, Radio Corri Solo 24 Ore. Adesso, dopo le informazioni per chi è in viaggio, in particolar modo sulla situazione a Roma, parleremo della firma storica, anche questa, non solo l'accordo di Bruxelles. Lo ripeto, molti di voi sono scettici, ma a nostro modestissimo avviso, e anche quello molto più di rilievo e pertinente di Adriana Cerretelli, è un buon accordo anche per l'Italia. I settori chiave del nostro sistema industriale vengono relativamente protetti e sicuramente non penalizzati. Dicevo, firma storica, il passaggio di consegne da oggi, dal primo pomeriggio, l'Alitalia una parte dell'Alitalia passa alla CAI. Allora, intanto anticipo quanto alcuni ci chiedono. Sì, la nostra lapide, quella che ogni mattina accompagna da mesi i GR su quanto perde l'Italia ogni giorno, a questo punto cessa di esistere, perché Alitalia e CAI hanno firmato il contratto di compravendita della parte che interessava a CAI di Alitalia, e quindi si chiamerebbero asset di volo della ex compagnia di bandiera. Il commissario straordinario dell'Italia Augusto Fantozzi lo ha firmato appunto il passaggio, accordo con la CAI, oggi inizio pomeriggio, anzi verso le 3 di pomeriggio per essere ancora più precisi, che prevede la cessione di beni e contratti relativi all'attività di volo per un totale di 1.520 milioni di euro. Si conclude con oggi la parte, che dura da più di 2 anni, del processo di privatizzazione dell'Alitalia, iniziata col governo Prodi. Ricorderete la lista degli 11 partecipanti, poi dopo è nulla di fatto, poi tornava in campo Air France, poi si bloccò anche quella, insomma il resto è cronaca che purtroppo molti di voi ricordano molto bene, perché è una trattativa lunghissima con mille difficoltà. Entro fine anno dovrebbe arrivare la scelta del partner straniero, il 12 gennaio decollerà la nuova Alitalia. Da oggi siamo proprietari, ha detto il presidente della CAI Roberto Colaninno, ma continueremo a chiamarla Alitalia, anche se il nome lo potremmo usare dal 12 gennaio prossimo. Tra l'altro Colaninno ha anche elogiato il presidente del Consiglio Berlusconi, la Banca Intesa, per le opportunità di investimento che hanno offerto. Il prezzo è giusto, non abbiamo mai ricevuto pressioni. Non si tratta di un monopolio, né di una strategia di aumento dei prezzi, né toglieremo il mercato ai concorrenti naturali. Allora, l'ha seguito tutta la conferenza stampa, poi dopo la firma dell'accordo, il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buonasera. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Le dichiarazioni del presidente Colaninno sulla firma, ma anche appunto sulle prossime tappe da qui al 12 gennaio. E come dicevi giustamente, da studio acquisita all'Italia si guarda al futuro. Le prossime tappe temporali prevedono entro la fine dell'anno la scelta del partner straniero e dal 12 gennaio il decollo in tutti i sensi della nuova compagnia. Il presidente di CAI Roberto Colaninno ha voluto ringraziare due soggetti tra tutti per come è nata e poi si è svolta la vicenda: Banca Intesa e il presidente del Consiglio Berlusconi. Ma parlavamo della scelta del partner straniero. Colaninno ha fatto capire che la corsa è a due, Air France e Lufthansa. Ascoltiamo le sue parole. Noi stiamo discutendo con 3 società, la nostra idea è di una partecipazione fra il 20 e il 25%, che poi sul totale si diluisce, quindi sarà attorno al 20-21%, però questa sarà una decisione che prenderà il consiglio di amministrazione su nostra proposta. Noi oggi ci troviamo di fronte a due realtà completamente molto importanti ma diverse. Air France vuol dire Amsterdam, Parigi, Milano, Roma, quindi un'infrastruttura europea straordinaria che si pone a matrice fra l'Europa centrale, l'Europa del Nord e l'Europa del Sud. Lufthansa vuol dire un sistema aeroportuale straordinariamente efficiente che ha il suo punto centrale Francoforte e che poi si sviluppa attraverso Monaco, Zurigo, Bruxelles, probabilmente Vienna, probabilmente Malpensa. Ecco, noi pensando al futuro, pensando all'Europa, abbiamo di fronte due realtà positive entrambe, che però presentano per noi alcune particolarità di sviluppo sul futuro che sono, che cominciamo a identificare molto bene, che saranno certamente quelle che faranno la scelta del partner industriale. Queste dunque le parole di Colaninno per il futuro partner straniero. Per il resto la compagnia ha fatto capire Colaninno è pronta, sono partite proprio oggi le lettere per i futuri dipendenti di Alitalia, hanno intanto firmato i famosi accordi di Palazzo Chigi anche gli assistenti di volo, resta il punto interrogativo relativo ai piloti, sono centrali per i nostri obiettivi, ha detto Colaninno. Sentiamo. Noi abbiamo, Sabelli ed io, tentato di convincere e di illustrarne le motivazioni di quanto noi consideriamo importante la categoria dei piloti. Hanno questa categoria all'interno dell'Alitalia, ha delle responsabilità centrali che tutti conosciamo, hanno competenza e professionalità, però all'interno di una logica di una gestione privata abbiamo posto delle condizioni che certamente avranno la loro valenza nella esecuzione del lavoro giorno per giorno, e quindi sono sicuro che questa valenza verrà apprezzata piuttosto che criticata. Io credo che poi nel condividere le difficoltà del lavoro giornaliero si possano anche verificare incontri, occasioni, situazioni che sono sicuro cancelleranno quelle barriere che si sono create tra noi e loro. Dall'amministratore delegato di CAI, Rocco Sabelli, sono arrivati maggiori dettagli relativi all'operazione, a partire dagli obiettivi di mercato. Sul domestico, ha detto Sabelli, puntiamo al 55-56% dal 30% attuale, comprendendo il mercato internazionale la media sarà del 20%. Sentiamo. Sull'intera quota di mercato abbiamo avuto un approccio di questa natura. Noi puntiamo a mantenere le nostre quote di mercato media, quindi la crescita dei passeggeri è legata alla crescita del mercato. Abbiamo un approccio conservativo anche sui ricavi medi attesi, sullo yield atteso, che storicamente è uno yield in flessione in tutto il mondo, per motivi di competizione, di maturità del business. Sulle quote di mercato riteniamo di poter mantenere le nostre quote di mercato domestico e di probabilmente compensare una leggera perdita sul mercato internazionale, dove i low cost guadagneranno quote di mercato non solo su di noi, sull'intercontinentale rispetto a oggi, che insomma è obiettivamente abbastanza modesta. Quindi quel 20 è la media pesata di questi tre componenti. Altra delicata questione è la competizione tra Fiumicino e Malpensa. Colaninno ha negato che ci sia una gara in corso, ha fatto capire come i target passeggeri siano diversi per i due aeroporti, business a Malpensa, turistico a Roma. Per la DDK Isabelli è questione di numeri tra i due scali. Sentiamo. Basta guardare i numeri, basta guardare come è fatto il mercato. Roma e Milano sono due mercati assolutamente comparabili. 14 milioni di passeggeri tra andata e ritorno. 3 miliardi e 4 è il valore di questo mercato, ma c'è una propensione, un profilo del business, del mercato su Milano che è particolare. C'è più clientela business, c'è più outbound, cioè c'è più traffico in uscita piuttosto che in entrata rispetto a Roma, e come potete ben immaginare il traffico in uscita è un traffico che si gestisce meglio, si protegge meglio, perché è traffico che parte da casa tua. I prezzi medi, i valori medi del mercato milanese sono significativamente superiori a quelli del mercato romano. sembrerà un vezzo, ma anche lì bisogna guardare i numeri, i conti economici, 700 chilometri più a nord non è completamente indifferente. Il 70% delle rotte di intercontinentali e internazionali di CAI e del mondo sono verso le latitudini nord, quella distanza non è indifferente né sotto il profilo del ricavo medio né sotto il profilo del costo medio. Ma insomma, parecchi elementi, anche perché appunto Rocco Sabelli, che abbiamo appena ascoltato, amministratore delegato della CAI all'Italia, ha detto: torneremo su Malpensa solo se Linate poi avrà una regolamentazione da City Airport, cioè non ci farà concorrenza vera e propria, ma sarà un City Airport. Grazie a Vincenzo Miglietta, che ci ha raccontato i punti principali di questa conferenza stampa. Ufficialmente smette di esistere con oggi la vecchia l'Italia, nasce la nuova l'Italia. Mi sembra, comunque la pensiate e qualunque sia il giudizio sulla trattativa, una buona notizia, almeno si volta pagina in qualche modo, ma si volta pagina. Da Sebastiano Berisoni a voi in ascolto l'auguro di un buon fine settimana, di una buona serata. Un ringraziamento a Mauro Del Corno, Barbara Bianchi e Gaia Romani per l'assistenza in redazione. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.